la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Studio 24, in diretta 16:30, primi 39 secondi agli studi di Una Solata a Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Vi ricorda l'indirizzo verso gli Oscar @24.it e l'indirizzo a cui scrivere se volete candidarvi alla serie di trasmissioni su Italia non per giovani, che abbiamo iniziato, siamo arrivati alla seconda puntata. Oggi era pronta la puntata in realtà per commentare la pronuncia della Corte Costituzionale sull'Italicum, sulla legge elettorale, era promessa per le 13, quindi ospiti pronti eccetera eccetera. Come sapete, non è ancora arrivata la pronuncia, quindi abbiamo smontato la trasmissione. Ne avevamo anche un'altra a cui pensavamo stamattina, ma abbiamo detto no, ma sicuramente arriveranno, e quindi avevamo non inoltrato quella. E allora eccoci alla terza trasmissione, invece, con le vostre voci e le lettere che avete scritto e che continuate a scrivere, in cui ci spiegate perché la vostra storia, il vostro giudizio, o perché vi ha portato all'estero da giovani per accumulare esperienze, formazioni che qui non ritenevate di ottenere, oppure proprio perché ci siete andati grazie alle chance della formazione pubblica italiana e però poi magari avete trovato maggior soddisfazione lì, come perché in termini comparati, e perché non tornate, oppure se siete tornati come la pensate. E cominciamo quindi anche questa trasmissione. Naturalmente io segnalo al di là del vetro, agli onnipotenti grazie a cui andiamo in onda, sia chi sta in regia sia il mio editor della trasmissione, che se arriva la sentenza mi avvisano, e siano molto preoccupati del fatto che io ho detto che sono onnipotenti. Sono onnipotenti, cari ascoltatori, perché a Radio 24 comandano loro. Infatti di fronte a me chi sta in regia sta ridacchiando dicendo adesso ti metto un promo invece di continuare a farti restare. Stupidaggini, no, in realtà noi siamo molto grati a coloro i quali non esisteremo, senza dei quali non esisteremo. Allora, abbiamo innanzitutto questa prima parte della trasmissione, la storia di se stesso che ci ha mandato Fabrizio Lofaro. Fabrizio Lofaro sta negli Stati Uniti e io lo ringrazio. C'è anche un problema di naturalmente di fuso orario, però lui sta sulla costa non orientale, in quella occidentale. Buon pomeriggio Fabrizio, dove sei in questo momento? Buon pomeriggio Oscar, sono in macchina, sto andando al lavoro. Ma dove però? Io sono a Fresno, in California, diciamo nel centro della California, un'ora dal parco dello Yosemite. Sì. Per intenderci, diciamo, geograficamente. Tra l'altro stai in un, almeno a mio modestissimo giudizio, in una bellissima parte della California, però sì. Ecco, cioè, so che c'è chi preferisce magari la costa, la Baja California, queste cose qua. Me invece la parte proprio dove stai tu, per quel pochissimo che l'ho vista, c'ho un grandissimo ricordo in testa. Detto tutto questo, tu sei lì da parecchi anni oramai, vero? Sì, ormai sono 18 anni che sono fisso qua negli Stati Uniti, in California. Sono venuto qua a Fresno quando avevo 20 anni e ancora sto a Fresno, non mi sono, diciamo, mai mosso. Allora, cominciamo di lì. Com'è che a 20 anni sei finito a Fresno? Prima da dove venivi, dove sei cresciuto, cosa hai studiato? Io sono di Roma, sono cresciuto a Roma, all'Esquilino, e quando, diciamo, avevo 16 anni mia madre... che ha sempre avuto una grande visione, mi mandò a fare un anno qua negli Stati Uniti, qua a Fresno, che capitai a Fresno. Io sarei potuto andare in qualsiasi posto negli Stati Uniti, ma sono capitato qua, e come studente di scambio di un anno, perché voleva che io imparassi l'inglese. E niente, una volta che poi fermo lì, aspetta un secondo, perché sì. Sai che molte mamme italiane dicono: ma come, un anno, i figli lontani? Io ho molti amici che lo fanno. Io in primis, quando lo dico a mia moglie, dice: ma tu sei matto, non lo permetterò mai. Dice: ma che cosa dici? Ecco, nel tuo caso in famiglia, anzi, ti hanno spinto, è stata tua madre a spingerti. Sì, lei ha detto 2 mesi in Inghilterra, un mese in Inghilterra non è sufficiente, e l'unica cosa è andare e fare un anno. Io Sì, andiamo. Ed è una scelta che hai fatto tramite l'istituto che frequentavi in Italia, oppure l'avete fatta per i fatti vostri? No, una cosa per fatti nostri. Perfetto. E niente, poi... Ok, per te, come ti sei trovato in quell'anno? Benissimo, mi sono trovato benissimo, infatti tanto, tanto bene che poi alla fine... decisi che una volta che finivo il liceo in Italia volevo tornare, perché, diciamo, ho visto come com'era la società qua e quello che può delle opportunità. E quindi io ho fatto l'Istituto di Cinematografia e Televisione a Roma, l'Istituto Roberto Rossellini, mi sono diplomato come cameraman e poi sono andato a lavorare un anno in Brasile e poi sono tornato. Poi sono sei andato a lavorare un anno in Brasile? Sì. E come ci sei finito in Brasile? Mio padre viveva in Brasile e mi servivano dei soldi, diciamo, per cominciare l'università qua e quindi una volta andato in Brasile sono riuscito a mettere un po' di soldi da parte. Quindi ti sei appoggiato a tuo padre che stava lì, hai fatto un po' di soldi lavorando in Brasile e a quel punto hai detto no, io torno in California. Sì, torno in California. Ma ci sei arrivato quindi con un capitalone da parte o con pochi soldi? $2,000, sono venuto con $2,000 e il mio primo, diciamo, semestre all'università costava 4,000, quindi mi sono dovuto mettere a lavorare subito per pagare e fare tutto quello che dovevo fare. Ho fatto tutto da solo, mia madre mi ha sempre spinto, mi ha sempre dato una grande spinta, ma era sempre una cosa mia, quindi non vedevo perché mia madre mi doveva dare i soldi per farlo, e quindi lei stava sempre molto molto, diciamo, moralmente e anche quando poteva, diciamo, di aiutarmi, ma ecco, però dovevi pensare a te stesso. E a quel punto, quindi, hai fatto l'università lì da solo, nessun problema, eccetera, eccetera, e poi cosa ti sei messo a fare? E poi questa è una cosa che devo dare tanto all'Italia, quando io dico l'Italia ha sempre tante cose da offrire, perché, diciamo, a livello tecnico, educativo, la formazione era stata eccellente, io poi giocavo a pallanuoto, quindi io con quelle due cose sono venuto qua e ho cominciato a allenare a pallanuoto e ho cominciato a insegnare. Ho lavorato un anno per la Pepsi perché ho fatto la mia laurea era in risorse umane, ma volevo tornare comunque volevo tornare nelle scuole, volevo tornare a allenare e a insegnare, e quindi ho insegnato per 12 anni al liceo e ho allenato e avevo un club di pallanuoto con 300 allievi che ho sviluppato qua. E scusa, e quando dici hai insegnato al liceo, questo è un paese che ha con la buona scuola ha preso in mano la faccenda di avere 280.000 circa precari nella scuola, e ci sono ancora adesso gente che non ha fatto parte dei primi 87.000 e che non è riuscita magari a vincere il concorso per le altre 47.000. c'è gente che ha 50 anni e non è mai riuscita a entrare in ruolo. Tu hai insegnato a insegnare a un liceo entrando di ruolo? Di ruolo, sì, subito. Anzi, qua subito. Adesso, negli ultimi due anni, capisco che poi non parli più italiano. Quindi c'è una domanda molto forte che non viene coperta, un po' il contrario, da noi c'è una domanda di cattedre che restano scoperte dove nessuno vuole andare, nel nord, perché ce ne siamo occupati più volte, e un eccesso di offerta, del resto. Però insomma nessun problema all'inserimento, sei stato 12 anni e adesso cosa fai? Adesso sono 4 anni, sono il direttore di un programma che gestisce materie tecniche in licei. E sviluppiamo materiale e classi per sviluppare ragazzi dal liceo, dai 16 anni in su, 15-16 anni in su, per indirizzarli direttamente in industrie oppure lavori oppure anche al collegio, ma prepararli già a livello liceale. Quindi è come se fosse una specie di istruzione duale nel ciclo della secondaria alla tedesca, perché voi in realtà preparate materiali, progetti per la didattica di materie tecnico-scientifiche per i sedicenni. Quindi stiamo parlando dell'equivalente della seconda parte del nostro ciclo della secondaria, ma con un'impostazione direttamente finalizzata alle specifiche richieste per poi trovare un'occupazione, eccetera, eccetera. Così? Sì. Giusto, sì. Esattamente quello che non c'è ancora una volta nel nostro paese. Ma per gli avanzamenti, voglio dire, da quando insegnavi fino a questo ruolo nella gestione di amministrazione di progetti di scuole pubbliche, qualche problema negli anni, visto che da noi la stragrande maggioranza di chi lavora nella scuola entra come insegnante e lì muore, cioè non ha nessuna reale possibilità di avere avanzamenti, lì come funziona? Qua diciamo io a me dopo un po' di anni che stavo che insegnavo mi hanno chiesto se volevo passare all'amministrazione e per qualità penso e per merito e per altre cose e quindi c'è questo avanzamento che ho avuto l'opportunità di prendere e ma lì come funziona nelle scuole pubbliche? Tu hai la certezza di un contratto a vita praticamente come qua o vieni misurato per performance? Allora, le cose stanno cambiando un po'. Qua insegnanti, come insegnanti a livello anche liceale, elementari e medie, ci sono dei sindacati, quindi dopo un tot di anni, dai 3-4 anni, diciamo uno diventa funzionario a tutti gli effetti, quindi... ci sono delle garanzie, no? Sì. A livello amministrativo no, a livello amministrativo io sono non c'è un contratto, chiaramente c'è tutto a performance e quindi di budget, di programmi, quindi tu accettando questa promozione in realtà hai dal punto di vista di come si ragiona in Italia in maniera prevalente hai rinunciato a delle tutele per poter però salire e avere, no? È così? Sì, ho rinunciato alle tutele, ma... Cioè, hai spezzato un classico tabù della concezione del lavoro italiana. Però l'hai fatto, dimmi la verità, l'hai fatto, raccontalo a chi ci ascolta, l'hai fatto come un sacrificio, dicendo maledizione, mi devo adattare, o condividi la filosofia con cui si dice no, se sali in su devi essere misurato a performance molto più duramente di chi sta giù, eh? No, l'ho fatto consapevolmente, sapendo che comunque se avessi fatto il lavoro che uno si aspetta, comunque il lavoro ce l'hai, come in tutte le altre aziende private dove è performance, quindi non vedo perché anche a livello amministrativo pubblico queste cose. Ecco, io ti ringrazio perché siccome la California, anche dal punto di vista delle università, grandissime aziende della California sono pubbliche, però è un ottimo esempio per riflettere nel nostro paese come non solo pubbliche, ma magari private accreditate, ma pubbliche gestite dal pubblico, adottano dei criteri di misura della performance e delle facoltà di hire and fire, misurati, cioè di assunzione e licenziamento, misurati su le performance, che nel pubblico italiano sono sconosciute. Io credo che noi avremmo una enormità di guadagno se le adottassimo anche sui manager pubblici e dirigenti pubblici, perché finirebbero le cose che vediamo in Italia, visto che il pesce puzza dalla testa. Oggi, ieri i nostri ascoltatori hanno visto sui giornali la vicenda dei furbetti di Giuliano, stamattina sui siti dei giornali trovate un terzo del totale dell'organico del comune di Napoli, in provincia di Napoli, un terzo indagato perché continuavano a fare i furbetti, tutte cose che con dirigenti misurati su performance secondo me non avverrebbe. Però io faccio questa piccola scommessa, ma ovviamente in Italia non è così. La domanda finale è questa: tornerai in Italia? Torneresti in Italia? Perché sì, perché no? Io adesso no, ma ho sempre detto che se l'Italia, che se avessi avuto le stesse opportunità in Italia non me ne sarei mai. L'Italia è un paese che tutti quanti ammirano, anche negli Stati Uniti siamo sempre stati, quando uno dice che è italiano... sempre ben visto, perché per il lavoro che gli italiani hanno fatto qua nei decenni e per quello che è la nostra terra, una terra di cultura. Non c'è dubbio, però dici non ci siamo, insomma. Certo, non ci siamo. I tuoi figli, i tuoi figli li vuoi far crescere lì? Io vorrei, sì, vorrei che noi veniamo... una volta all'anno, due volte all'anno cerco di fargli stare più a lungo, però hanno la cittadinanza italiana, io ho preso il passaporto, giusto anche in caso che un giorno volessero... Liberi di scelte, certo, nella loro vita, Però continui a pensare che per il momento, diciamo, le chance che sono a disposizione lì anche per il loro futuro, certo, per le loro, sono per il loro futuro, molto più le cose cambiassero. Certo. Ma noi guarda, io ti ringrazio perché la trasmissione, questo ciclo di trasmissione nasce proprio per far riflettere tutti coloro che ci ascoltano sul fatto che non è affatto detto, non è impossibile, come si dice in Frankenstein Junior, si può fare. Ecco, questa è la dimostrazione. Io ti ringrazio moltissimo, Fabrizio, tantissimi auguri, un abbraccio a te e a tutti i tuoi cari, e viva tua madre, se posso dire una cosa, perché madri così, grazie, ecco, farebbero la differenza anche fossero un pochino più frequenti nel nostro paese. Grazie. Buon lavoro, torniamo tra un minuto, grazie, intanto con un'altra storia, perché adesso c'è l'informazione sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, nel frattempo niente sentenza alla corte, vi aggiorno in diretta, no, non c'è ancora, aspetteremo. E dopo la storia che abbiamo sentito da Fresno in California di Fabrizio Lofaro, a cui la vita è stata cambiata da una scelta molto intelligente della mamma, avete capito anche che la mamma non c'era, papà era altrove, quindi una famiglia, però insomma la mamma dice al figlio: tu ti fai un anno delle superiori in America, scegliamo, ma devi farlo, vedrai. E di lì nasce tutto al punto che anni e lui si torna, appena finito l'istituto tecnico che faceva cinematografico, che ha frequentato a Roma, e avendo capito in quell'anno che sì, proprio voleva stare là, lui va lì, fa l'università lì, lavora da subito, entra nella scuola pubblica, inizia a insegnare nella scuola pubblica, fino a diventare Director of Instructional Services nella scuola pubblica. Non vuole garanzie, felice di essere misurato sulle sue performance, ed è convinto che a quel punto la vita sta lì. Ama l'Italia, non disconosce tutti i suoi meriti, non ne parla male, l'avete sentito, ma dice: sì, io ho capito quando avevo 16 anni che qua c'era chance che in Italia erano impossibilitate. Adesso è una storia diversa, perché non bisogna sempre insistere, bisogna darvi sapori e aspetti diversi di quello che si può cambiare nel nostro paese. Infatti, in questo secondo caso, Marco Bettini, in realtà in Italia era avviato e già svolgeva una professione molto avviata, in un'impresa di tutto rispetto, di grande soddisfazione, grandissimo impegno, però a un certo punto fa un'altra scelta e ci ha scritto per motivarcela, cioè per motivare in termini comparati che cosa l'ha spinto, pur essendo, o no, che in Italia si direbbe in una posizione che sarebbe invidiata da tantissimi, senza particolari problemi di reddito e di soddisfazione del lavoro, però a un certo punto fa una scelta, perché dice: ma però vedendo qua ci sono delle cose, se vado fuori, che in Italia, pur essendo in una condizione di non particolare sofferenza, beh, andando fuori sarà ancora meglio. Allora, grazie a Marco Bettini per averci scritto. Dove sei, Marco? In quale parte dell'Europa? Buon pomeriggio, Oscar. Io vivo in Inghilterra, nelle West Midlands, nella contea dello Staffordshire, città più vicina a Stoke on Trent, la grande città più vicina a Manchester. Sì. Allora, e da quale parte d'Italia provieni te e la tua famiglia? Da uno dei posti più belli d'Italia. Veniamo dal Lago di Garda. Ah, da Desenzano. Esatto. In effetti sì, Desenzano. Molto, molto, molto bello. E quindi ti sei formato però in Italia, cosa hai studiato, dove? Io ho studiato ingegneria meccanica all'università di Brescia, che specie negli anni che l'ho fatta io era un posto decisamente dove ci veniva data una formazione di primissimo piano, di eccellenza. Magari, ecco, non era semplicissimo venire fuori in tempi brevi, però sulla preparazione non ho nulla da dire. E è stato veramente dopo conseguita la laurea, quindi con un tenacissimo impegno, problemi di trovare occupazione? No, un ingegnere meccanico quando avrà problemi a trovare lavoro a Brescia sarà un grosso problema. Vuol dire che il resto d'Italia è desertificato quasi. Ok, quindi nessun particolare problema. A quel punto primi lavori in imprese di che settore? Primi lavori, diciamo che stavo un po' cercando la mia strada, prima una fonderia, poi del motorsport, poi ho trovato veramente la mia strada nella progettazione. Ho fatto alcuni anni in alcune aziende di progettazione per terzi, sostanzialmente consulenti di ingegneria, principalmente nel settore agricolo e macchinari industriali, sostanzialmente. Lì mi sono fatto le ossa e anche una carriera piuttosto veloce, devo dire. Ma quindi era il settore automotive, cioè veicoli erano, o macchinari per produzione? Sì, trattori, mezzi off-road per lavoro, questo tipo di... E avevi, insomma, eri progredito in carriera, quindi... è una posizione più che soddisfacente, nessun problema a trovare lavoro. Certo, ti eri impegnato molto nell'università, però insomma stavi relativamente bene rispetto a come stanno tanti qui laureati disoccupati che non riescono a trovare neanche un call center, diciamolo, no? Sì, assolutamente, assolutamente. E poi invece a che punto e perché fai un'altra scelta? Poi succede che siccome la convinzione che il mondo è grande ma anche piccolo, il mio curriculum, man mano che io cambiavo competenze, ruolo aziendale o anche che cambiavo azienda, lo tenevo sempre aggiornato, sì, sia in lingua italiana che in lingua inglese, quindi sia su un cloud italiano che su uno britannico, perché l'inglese è sempre stata la mia lingua più forte. A un certo punto mi è arrivata una telefonata da un headhunter britannico che stava ricercando talenti per un suo cliente, un'azienda, l'azienda per la quale lavoro adesso, per una grossissima azienda del settore, del mio settore, che cercava per un posto di decisamente di prestigio. Ma non ho capito, cioè, scusa, un secondo, cioè tu non hai fatto la ricerca, tu mettevi il tuo curriculum in piattaforme che sono quelle professionalmente in cui si mettono i curriculum e così via, e ti hanno trovato loro dalla Gran Bretagna? Sì, hanno trovato il mio curriculum su internet. Questo la dice lunga, cari ascoltatori, su come aziende leader a livello internazionale fanno il recruiting, capito? Ecco, in Italia sono pochissime quelle al massimo livello, sto parlando tra aziende quotate e così via, quelle che seguono questo tipo di procedure, cioè la ricerca di eccellenze vere worldwide. Ecco, in Italia lo fanno, bastano diciamo tre palmi di mano e 15 dita, non oltre questo. Naturalmente tutti direbbero che non è vero, ma insomma più o meno parlo perché ne sono occupato in diverse trasmissioni di verificare davvero la distanza tra quello che poi uno dice di fare a HR, cioè le risorse umane, e quello che fanno davvero. E invece nel tuo caso arriva sta telefonata e quindi ci si pone il problema. E a quel punto? Solo per fare un piccolo inciso su quello che hai appena detto sul recruiting. Sì. Io le volte che ho cambiato azienda in Italia c'è sempre stato di mezzo il fatto che avevo esperienze lavorative precedenti con qualcuno che le relazioni conosceva, con qualcuno che era dentro. Parliamoci chiaro, le relazioni, no? Le relazioni umane, perché il nostro è un sistema relazionale. Oh, per carità. E fai conto che comunque buona parte dei miei clienti, che erano i miei clienti allora, in cui io andavo a progettare, di fatto a vendere i miei progetti, erano aziende della taglia e del nome e del blasone di quella per cui lavoro. Allora vai lì, immagino, ti fanno dei colloqui di lavoro, come ha funzionato? Beh, ho fatto un colloquio di lavoro, il primo colloquio per telefono, e poi mi hanno invitato a venire a fare un colloquio di persona. Fatto il colloquio, ho fatto un colloquio di 3 ore e mezza. Che per gli standard italiani è quasi impossibile. Perché vabbè, in Italia non ho mai fatto un colloquio più lungo di mezz'ora. Esatto. In quale mi chiedevo che cosa potessero aver capito in mezz'ora. Esatto. E dopo il quale? In 3 ore e mezza. Ecco, dopo il colloquio di 3 ore e mezza, in 2 giorni mi hanno fatto avere la proposta. E la proposta era, abituato appunto alle proposte italiane, era sconcertante il livello di dettaglio di quello che mi veniva offerto e chiesto in cambio dell'offerta, in termini appunto di competenze, di skill, di responsabilità, di ovviamente anche quello che era l'offerta economica. Tutti i dettagli, io non l'avevo mai vista una cosa del genere. Io ero abituato che ai colloqui italiani dovevo portare la mia busta paga precedente per dargli un'idea di quello che volevano offrirmi. Qua invece il trattamento economico era presente fin dalla prima mail mandata prima di fare il primo colloquio per telefono, perché loro danno un valore alla carica aziendale. Allora, io purtroppo vedo che il tempo sta finendo. La lettera continuava con lunghissimi esempi, con lunghi dettagliati esempi di come nell'azienda che lo ha trovato qua e che lo ha convinto in questo modo, tutto è ancorato a logiche di meritocrazia nella gerarchia aziendale e tutto è dettagliatamente previsto sia nelle facilities ma in quello che l'azienda chiede in cambio. Allora, Sì, contratti tailorizzati, ad personam, impegni precisi, vedete meno garanzia? No, perché a quel punto con la performance si va avanti. Questa è la ragione per cui Marco Bettini sta dove sta e non in Italia. Si può fare, pensateci. Grazie Marco, abbracci, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mino domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.